torte e dolci al cucchiaio. Non per farmene bello, ma per divertire il lettore da pagare il desiderio di un incognito che si firma un ammiratore, pubblico la seguente lettera giuntami il 14 luglio 1906 da Portoferraio, mentre stavo correggendo in questo punto le bozze di stampa della 10ª edizione. Stimatissimo signor Artusi, un poeta mi regala un esemplare del suo bel libro La scienza in cucina, aggiungendovi alcuni versi che le trascrivo perché possano servirle in caso di una nuova ristampa che le auguro prossima. Ecco i versi. Della salute questo il breviario, l'apoteosi è qui della papilla. L'uom, merce sua, può viver centenario, centellando la vita a stilla a stilla. Il solo gaudio uman, gli altri son luochi, Dio lo commise alla virtù de cuochi. Onde se stesso ogni infelice accusi che non ha in casa il libro dell'Artusi e 10 volte un asino si chiami se a mente non ne sa tutti i dettami. Un ammiratore.